in primo piano. Giovedì 10 giugno è il giorno della votazione, la fiducia al Senato sulla legge sulle intercettazioni, e questo sicuramente è il tema anche più sviluppato. Le aperture però sono diversificate. Il Sole 24 Ore sceglie ancora le pensioni, tagli per 1,4 miliardi. Oggi la decisione sulle statali, la famosa decisione dopo che l'Unione Europea ci ha imposto e ci impone dal 2012 di parificare l'età pensionabile uomini e donne del pubblico impiego a 65 anni. Anche per il Messaggero, pensioni, scalone unico per le donne. Mentre le intercettazioni, come detto, sono la scelta di vari quotidiani, il Corriere, intercettazioni, battaglia finale. Per la Stampa, intercettazioni, oggi la fiducia, Repubblica, Berlusconi attacca la Costituzione. Tanto che l'Unità mette la foto di Benito Mussolini. Dichiarazioni di guerra, attacco alla Costituzione, disprezzo del Parlamento, disobbedienza globale. Per il Fatto Quotidiano invece carta straccia in prima pagina, ed è la foto di Berlusconi che tiene in mano la Costituzione. O meglio dei fogli, ma insomma si riferisce alla Costituzione. Per Libero e Il Giornale invece ancora la guerra agli sprechi. Per Libero altri 200 scaiola, quelli con la casa pagata. Si parla dei politici che, pur vivendo a Roma, hanno 4.000 euro al mese di indennità per vivere fuori sede, che viene data a tutti i parlamentari, ma in realtà questi politici vivono a Roma. E poi Il Giornale, tutti gli stipendi di chi ci comanda. Da oggi Il Giornale inizia a pubblicare tutti gli stipendi del pubblico impiego. Insomma, ce ne sono delle belle, come si suol dire. Cominciando dalle intercettazioni, un testo blindato, visto che è stata posta la fiducia al Senato questa mattina. C'è oggi anche in prima pagina del Sole 24 Ore, devo dire, la Stampa è abbastanza unanime, Corriere, Repubblica, la grande stampa, Corriere, Repubblica, Il Sole, tutti i grandi giornali sono, Il Messaggero, contro questa legge, che devo dire accoglie soprattutto dei sostenitori. Ripeto, se c'è Giuliano Ferrara sul Foglio, c'è sicuramente Il Giornale, c'è Filippo Facci su Libero e Libero stesso, ma diciamo la grande maggioranza è contro questa legge. Oggi Stefano Folli firma in prima pagina sul Sole: pronto, chi non parla, una legge infelice. Questo è l'editoriale. Se è vero, come assicura il Presidente del Consiglio, che per varare la legge sulle intercettazioni ci sono voluti 2 anni di preparativi, il meno che si possa dire è che questo tempo poteva essere speso meglio. Ieri la decisione di porre la fiducia al Senato sul testo ha suggellato un provvedimento nato male, cresciuto sbilenco, al punto da risultare farraginoso, contraddittorio, forse incostituzionale in qualche sua parte. Non un grande risultato per 2 anni di lavoro. Questo è il punto cruciale, scrive Folli. Esiste il problema dell'intercettazione e del loro uso improprio, ma occorreva risolverlo all'interno di una cornice liberale, un perimetro che fosse in grado di conciliare i diritti individuali e la buona salute delle istituzioni. Invece non si sfugge all'impressione di un intento punitivo e al limite vessatorio nei confronti dei magistrati e ora degli editori. Tra l'altro i giornali si soffermano, insieme allo sfogo sulle intercettazioni, anche lo sfogo di Berlusconi, come detto, sulla carta costituzionale, no? Un inferno governare così, Berlusconi cambiare la carta, anche sul Corriere della Sera, proprio ieri che c'è stato lo sfogo davanti ai piccoli imprenditori della Confartigianato. Di Berlusconi se l'è presa ancora con, insomma, i lacci e lacciuoli del potere che lui dice fino in fondo non ho, e anche perché c'è la Costituzione datata e nata in un momento in cui era forte la contrapposizione tra capitale e lavoro, tanto che democristiani e comunisti dovettero trovare dei compromessi su ogni articolo. Qual è però il retroscena politico secondo alcuni giornali, per esempio secondo Francesco Verderami sul Corriere della Sera, ma anche per la Stampa? È che Berlusconi in questo momento vuole rompere l'asse che sarebbe creato Fini-Tremonti. L'obiettivo è rompere l'asse Fini-Tremonti, per Ugo Magri sulla Stampa, ma anche per Verderami appunto sul Corriere. Tremonti vede Fini il gelo del Premier. Il telefono di Berlusconi ormai non squilla più. Secondo Verderami, se Tremonti ha qualcosa di cui lamentarsi, chiama ormai il sottosegretario alla presidenza Gianni Letta. Dopo Lo scontro sulla manovra, il titolare di Via 20 Settembre si rivolge al braccio destro del Cavaliere per protestare contro le dichiarazioni di Berlusconi che vorrebbe cambiare il provvedimento economico in Parlamento. Il centrodestra, scrive Verderami, somiglia sempre più a un set di Cinecittà. Dietro ai fondali non c'è rimasto quasi nulla. Non c'è dubbio che il governo sia destinato a durare, ma è questo senso di vuoto a preoccupare Berlusconi. E cosa è successo ieri? Che c'è stato questo incontro tra Tremonti e Fini. Quando il Cavaliere ha saputo di questo incontro, apriti cielo, Giulio c'è andato per conto suo, di questo incontro non ero a conoscenza. L'altro retroscena politico lo troviamo invece sul Foglio in prima pagina. Sarebbero le trame di Casini e del Cavaliere intorno alla manovra. Silvio Berlusconi e Pier Ferdinando Casini si corteggiano pubblicamente, si telefonano in privato 3 volte nelle ultime 2 settimane e pare si siano pure incontrati il mese scorso. Ma secondo il Foglio si tratta di manovre in cui nessuno dei due crede sino in fondo, un mix di furbizie che si incrociano. Il Premier ha teorizzato il ritorno dell'UDC nel centrodestra la settimana scorsa di fronte al proprio Stato Maggiore. Nemmeno i generali del Premier se la sono bevuta tutta. Cioè ci sarebbero queste sorta di avvicinamento, ma in realtà un gioco delle parti intorno alla manovra di Casini e di Berlusconi. Insomma, come detto, ci sono le dichiarazioni pubbliche, ma poi ci sono quelle che vengono definite come delle i classici retroscena della politica. O, come detto, sull'intercettazione c'è il tema dell'occupazione. C'è Di Pietro, e ieri poi alla Zanzara avevamo il senatore Belisario dell'Italia dei Valori, che ha passato immagino la notte al Senato, è uno dei 10 senatori, ci sono le foto sui giornali, che ha deciso di occupare l'aula del Senato, dove oggi alle 11:30 si deve votare la fiducia sul DDL intercettazioni. Cosa succederà? Cosa non succederà? Impediranno quelli dell'Italia dei Valori il lavoro dell'aula? Faranno resistenza a oltranza? Di Pietro fa occupare l'aula, resistenza contro il dittatore, a pagina 3 del Corriere. Il dittatore sarebbe, secondo l'Italia dei Valori, ovviamente Berlusconi. E c'è anche un straordinario articolo di Mattia Feltri sulla Stampa che ricorda, dal titolo Notti insonni, tanta acqua, l'arte dell'ostruzionismo, racconta un po' la storia dell'ostruzionismo, soprattutto legato ai radicali, l'aula come un ring. Nel 53 Andreotti si mise in testa un cesto per ripararsi dai corpi contundenti. Roccella dei radicali si applicò un catetere, perché aveva una certa età, temeva di farsela addosso, arringò l'aula 5 o 6 ore, ma il record è di Marco Boato, andai avanti più di 18 ore, esausto, ma ce la feci, parlai una prima volta 16 ore, una seconda volta 18 ore e 20 minuti, cominciai alle 8 di sera, finì alle 14:20 del giorno successivo, aveva ancora un paio di ore di autonomia. E poi appunto questa staffetta dei radicali che inchiodò la Camera per giorni, ma ci fu anche Almirante, 8 ore consecutive, tanto che si guadagnò il titolo di vescica di ferro. Ora queste cose non sono più possibili, sono stati cambiati i regolamenti parlamentari, sono spazi contingentati nei tempi, soprattutto di intervento, però certo, notti insonne, tanta acqua, l'arte dell'ostruzionismo, allora l'ostruzionismo si faceva così, con discorsi anche di 18 ore e parlamentari che si applicavano il catetere per la paura di farsela addosso, per stare lì a fare ostruzionismo. Oggi che succederà? Lo scopriremo in mattinata, cosa intendono fare quelli dell'Italia dei Valori che stanno occupando il Senato. Intanto, cosa intende fare Dario Fo, premio Nobel per la pace, ce lo dice in un'intervista rilasciata all'Unità a pagina 9. Sto dalla vostra parte, firmerò tutti gli articoli scomodi e che sono vietati. D'altronde sono già finito in galera perché non accettavo le regole. Roba seria, c'era un prefetto di mezzo, ma poi mi hanno dato ragione. E poi cosa volete? Alla mia età un po' di galera ogni tanto fa bene. Cioè Dario Fo dice: sono disposto ad andare in galera. Anzi, farebbe bene a tanta gente che invece non ci va mai. Credo che se qualcuno ci andrà, sarò ancora io. Non per fare la vittima, ma non vedo nell'immediato un'ondata di coraggiosi pronti a farsi carico. Oddio, non mi sembra neanche che Dario Fo possa andare in galera. E poi ancora Dario Fo, gli hanno dato il Nobel, qualcuno dirà. Cosa cavolo vuole adesso? Anche la galera? Sai che ti dico, in un paese come il nostro finire in cella è un onore. Se pensi che chi invece dovrebbe finire dentro è al potere. Ecco dove ci hanno sbattuti. Questo è snobismo forte. Dario Fo, sono disposto ad andare in galera. Anzi, mi farebbe bene un po' di galera. E andare in galera in Italia è un onore. Beh, sulla prima pagina di Libero la voglio leggere, tenetevi forte, sulla vignetta di Vauro, perché è graffiantissima, però ci piace così, no? Se no, che senso ha per mettere un po' di sale? Vauro, Berlusconi, ci sono due diavoletti all'inferno. Berlusconi dice che la Costituzione è un inferno, dice il primo. Il secondo, appena arriva, lo sbattiamo nel girone delle gran teste di cazzo. Allora, le pensioni. Il Sole 24 Ore, pensione tagli per 1,4 miliardi di euro. Oggi il governo dovrebbe decidere la risposta all'Unione Europea, che ci chiede appunto di parificare la pensione età 65 anni di donne e uomini per gli statali. Per le dipendenti pubbliche si profila lo scalone previdenziale di 4 anni, quindi la soluzione unica, uno scalone di 4 anni che scatterà il 1 gennaio del 2012 e porterà da 61 a 65 anni la pensione. Questa è la scelta più prevedibile. A pagina 5 Davide Colombo, come di consueto, ne spiega poi le motivazioni, anche i costi, parla del 1 miliardo e 450 milioni che dovrebbero essere risparmiati con questa scelta al risparmio, appunto, risparmio aggiuntivo, una cifra che è il risultato della minore spesa per le nuove pensioni, circa 2 miliardi di minore spesa, bilanciata dai maggiori costi per le amministrazioni che dovranno mantenere al lavoro le dipendenti per qualche anno in più. Pesa anche il blocco del turnover, le rivalutazioni, valutazione delle liquidazioni, insomma questa cifra verrebbe fuori dallo scalone 1,4 miliardi di risparmi. Ma a proposito di questo e di risparmi e di tagli, il Giornale e Libero continuano oggi focalizzandosi sui dipendenti pubblici per quel che riguarda il Giornale e i parlamentari che si beccano 4.000 euro di diaria al mese, anche quelli che vivono a Roma, cioè la diaria per vivere a Roma, va anche a quelli che vivono già a Roma, quindi hanno già la casa a Roma. A Brunetta meno del suo braccio destro. Questo è il titolo di come il Giornale propone quella che inizia oggi come una sorta di campagna e una operazione trasparenza. La definisce così Vittorio Feltri in prima pagina: tutti gli stipendi di chi ci comanda. Vittorio Feltri spiega di cosa si tratta. Mi preme rassicurare il lettore prima di attaccare con la predica. Noi non ce l'abbiamo con i dipendenti pubblici, anzi personalmente nutro per loro un sentimento di perpetua solidarietà, non fosse altro perché in epoca remota sono stato loro collega. Da giovane ho lavorato in un'amministrazione provinciale decisamente troppo pagato per il nulla che davo in cambio, eccetto la presenza saltuaria in ufficio. Il fatto è che le retribuzioni nel pubblico impiego sono cresciute in 10 anni del 39,7%, mentre in quello privato soltanto del 25,7%. Una bella differenza, ed ecco allora che Vittorio Feltri dice: ecco perché da oggi pubblichiamo tutti i redditi di chi lavora negli enti pubblici. Oggi si comincia con pagina 2 e 3, il Ministero della Funzione Pubblica, dunque ecco perché Brunetta, e la Regione Lombardia, che ha 3.000 dipendenti contro i 27.000 della Sicilia. Oggi i 2 e 3, ecco, con tutti i nomi, sapete quanto guadagna Brunetta? 189.000 euro. Sapete quanto guadagna il suo capo gabinetto, dunque il suo braccio destro? Di più, 215.000 euro. Non so, il portavoce, Vittorio Pezzuto, che ci chiama spesso, anche nostro caro amico, oltre che collega, 84.000 euro, il portavoce di Renato Brunetta. Ci sono le consulenze, Gianni De Michelis. Questo so farà un po' arrabbiare, perché Gianni De Michelis in passato, Tangentopoli, consulente oggi di Brunetta, una consulenza da 40.000 euro. Ma poi anche gli stipendi della Regione Lombardia. Oggi si parte dalla Regione Lombardia. Tutti i consiglieri che guadagnano 119.000 euro all'anno circa, e poi i dirigenti, l'elenco di tutti i dirigenti. Io così ho dato una lettura veloce, può darsi che mi sia sbagliato, insomma le cifre sono sui 100.000 euro in su, diciamo. Mi pare di capire che il dirigente che guadagna di più alla Regione Lombardia di quelli pubblicati è Barbara Piotti Totti, che guadagna 118.000 euro e rotti all'anno, ma ce ne sono moltissimi, da 100, per esempio Cesare Giovanni Meletti 117.000, dunque insomma un migliaio d'euro in meno, ma poi ci sono tutti, l'elenco completo. E poi da domani si passerà ad altro. Da oggi, dice Vittorio Feltri, pubblichiamo tutti gli stipendi di chi sono pagati, di chi è pagato coi soldi pubblici. E così fa anche Libero. Altri 200 Scaiola se la prende coi parlamentari e ne fa l'elenco di che prendono 4.000 euro al mese per vivere fuori sede, ma vivono a Roma. Perché ovviamente non è che si può fare una discriminazione, tutti prendono questi 4.000 euro al mese, sia i deputati che sono di Crotone, di Bolzano, di Imperia, di Bari, ma anche quelli che vivono a Roma, e dunque sarebbero spese per pagarsi la casa e l'alloggio a Roma. Certo, chi vive a Roma, in teoria, è una vecchia polemica, forse non ne avrebbe diritto. Però se si dà a un parlamentare si dà a tutti. E allora finanziamo le vacanze alla casta Libera. E poi i deputati romani prendono i soldi per stare a Roma, più di 4.000 euro al mese per coprire le spese di soggiorno. Se la prende Libero, non so, con Veltroni, che ne ha già presi 768.000, Rutelli 864.000, Fini 1.200.000 euro, perché ovviamente hanno contato tutti gli anni da parlamentari e il fatto che vivano a Roma. Anche Il Fatto se la prende con la questione di casta, pensioni, redditi, super pensionati, doppio reddito. A pagina 5 del Fatto c'è un articolo di un'intera pagina di Salvatore Cannavò che spiega, parte così, lacrime e sangue per tutti o quasi. Per esempio i Gran Commi di Stato. Secondo Il Fatto Quotidiano la vicenda è questa. Molti Gran Commi di Stato prendono anche dirigenti di Stato, parlamentari, ex presidenti del Consiglio, risultano anche con cumulo di reddito pensionati dell'Istituto dei Dipendenti Pubblici, l'INPDAP, che allo stesso tempo continuano a percepire importanti compensi per i loro incarichi pubblici. Dunque hanno il compenso per gli incarichi pubblici e in più la pensione dell'INPDAP, e sono pensioni che, dice Il Fatto, non sono da 700-800 euro, ma anche fino a 8-12 mila euro al mese. Per esempio, Mario Draghi, il capo della Banca d'Italia, per Draghi il cumulo è possibile. Accanto alla sua indennità, Draghi, scrive Il Fatto, incassa ogni mese una pensione lorda di 14.843 euro, che diventa però di 8.600 euro netti, al netto delle ritenute. Fino al 2008 tra le ritenute c'era anche la trattenuta per cumulo tra pensione e reddito da lavoro, ma questa trattenuta è stata tolta. Oppure Giuliana Amato, che continua ad accumulare poltrone per Il Fatto, e oltre ai soldi, diciamo, che ha come incarico pubblico, incassa anche una pensione lorda mensile di 22.000 euro, un assegno netto dunque di 12.518 euro. Oppure Renato Brunetta, che da una parte appunto sul giornale ha messo la trasparenza, ma sul Fatto all'età di 60 anni è anche in pensione come docente universitario dopo 38 anni di insegnamento a circa 3.000 euro netti al mese. Insomma, quelli che hanno un incarico pubblico ma anche Oscar Luigi Scalfaro, 4.774 euro al mese di pensione. Oltre a quello che ha gli emolumenti, immagino, al Senato. Antonio Di Pietro 1.956 euro al mese. Insomma, trovate tutto sul Fatto. Che dobbiamo dire? C'è poco spazio, c'è molto sui compensi nei titoli di coda della RAI, c'è il gran casino della RAI, e c'è spazio per le ultime due segnalazioni, che sono gli mega yacht in fuga dall'Italia dopo la vicenda Briatore. Attenzione, l'allarme sul Financial Times: l'Italia è considerata un paese a rischio per gli yacht. Dopo il sequestro di Briatore, sarebbe questo passaparola, alcuni consulenti legali stanno avvertendo i clienti con i mega yacht, che nel 90% dei casi battono bandiera delle Cayman, di stare attenti prima di avventurarsi nelle acque italiane. Attenzione, perché qui in Italia Briatore Docet, sequestro del Force Blue di Briatore Docet, i mega yacht pare non siano graditi.